degli Audio Caos. Massimo che ci sta ascoltando da Latina, il medico della peste, e Giuseppe Verticchio in arte Nim, che ci siamo goduti in queste settimane. Poi naturalmente una buonasera anche a Valerio Michetti, di anche lui di Umanima, della Grazia Obliqua, Sara Capo a Fontana di Progetto Non Eme, insieme a Dario Arrighi. Giulia Vassena, Eugen Vintras del Progetto Gin. Vado anche a menzionare Apatia, suo splendido lavoro che presto ci ascolteremo da queste parti. Ancora Grazia Obliqua con Alessandra Trinity Bersiani. Roberta Morghi de Lod di Radio Bandito, anche lei dal Piemonte. E Chiara dice di Como, a Caracas fa solo acquisti alcolici, bene. Un buon buonasera anche a Christian, amico di questa radio, che mi dice ci vediamo venerdì al Forte. E perché? Perché venerdì prossimo ci saranno in concerto Ataraxia, progetto neofolk, neoclassico, medieval, proveniente dall'Emilia Romagna, anticipato dai romani Icos o Silence sulla versante più post-punk, e dopo un DJ set del sottoscritto e In Noctibus Panis, a sottoscrizione per Radio Onda Rossa, Forte Prenestino, in via Federico Del Pino a Centocelle. Questa sera terminiamo l'analisi e il gustarci proprio l'ultimo lavoro, che peraltro è anche il primo, di Camilla Battaglia, un artista, una voce che nasce come vocalist jazz, ma che poi applica la sua arte e il suo talento anche in questa circostanza, a metà tra IDM e ambient. E dunque, Perpetual Possibility numero 1 e All Shall Be Well. Oh. non so che di metafisico, di siderale, di impercettibile, domina questo Perpetual Possibility, esordio per Camilla Battaglia, una delle voci più interessanti al femminile degli ultimi anni. Che mette d'accordo le sue influenze jazz, ma anche evidentemente un occhio di riguardo anche rispetto alle avanguardie del Novecento. And two persons. John Cage, Luigi Nono, Stockhausen. Detachment. Saluto Noise Cluster con Flavio Delbecante e Arianna Degni Lombardo, e mi sembra proprio oggi, o quantomeno in un futuro molto prossimo, uscirà un nuovo lavoro che ci ascolteremo qui a Radio Onda Rossa. Un abbraccio anche a Filippo Panichi e Nicola Locci, ottimi musicisti anche loro. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Bruno Cossano, eminenza grigia dell'industrial degli anni Ottanta, nonché anche conduttori di Plankton, un interessante programma su Radio Spazio Ivrea, martedì sera, dalle 20 alle 21, consigliato. Invece adesso ci ascoltiamo Gianluca Becuzzi, questo è Axis Mundi, il suo doppio CD, permeato di notevole religiosità, in un senso però non ufficiale se non pagano. E allora dal primo CD ci ascoltiamo Altar of Fire. And indifference between them. Difference between them.

Бежи пространного пути в пагубоповеди, бежим греховных страстей до ада понизводят. Тесный же путь возлюбим, да наследим жизнь вечную. Преподобнее отцы наши Сергии Германии, молите Бога о нас. Солнце правды Христе, во сияние дней светом разума Твоего, до светильников наших Сергия и Германа, сердцем и устам воспою во славу Твою, Владыко. Тесный же путь возлюбим, да наследим жизнь вечную. Anche questa sera abbiamo dedicato quasi 12 minuti a Gianluca Becuzzi da questo Axis Mundi. Il fascino sciamanico che pervade l'intero lavoro con Gianluca Becuzzi, che suona chitarra, basso, droning e immette anche sampling, compreso questi canti della Chiesa Ortodossa. E dunque un ottimo ritorno per Gianluca Becuzzi dopo Mana dello scorso anno. Lo ricordiamo, nella metà degli anni 80 circa, nella dimensione IBM Industrial come Limbo, poi il minimalismo elettronico di Kinetics e molti lavori con il suo vero nome, sempre con un afflato sperimentale. Buonasera a Like Awake, storia ambient qui di Roma. Ancora Italia, e questa volta abbiamo proprio un compendio, un album dedicato proprio alla scena industriale, post-industriale, sperimentale italiana degli ultimi 20-30 anni. Italian Music Survey, Anthology of Post-Industrial and Experimental Music from Italy. Un'opera evidentemente ideata dalla Nesplay Sounds Group Production di Raffaele Pezzella, spessissimo presente nelle personali programmazioni. C'è anche una considerazione, anche storica se vogliamo, dello stesso Gianluca Becuzzi, che compare nel digipack dell'album. Cominciamo con la storia di Rules Order, progetto genovese, con Rejected Without Blame, e un altro pezzo di storia che ci fa risalire agli anni Ottanta, ossia Daniele Ciullini con Decoys. Ha ha ha. You creep. Impulsi e le soluzioni sonore ideate da un lato e in senso magari al confine con il kraut rock riguardante Runes Order con Claudio Dondo da Genova, progetto storico iniziato sul finire degli anni 80 e poi di quella generazione, se non prima, apparteneva anche a Daniele Ciullini, che saluto, con Decoys, e questo sempre da Anthology of Post-Industrial and Experimental Music from Italy. Saluto Maria D'Agostini e appunto Gianluca Becuzzi, Dez De Carlo from Boston, del progetto Violet Knox, del quale stiamo aspettando un ultimo album. E questa è sempre Gianluca Becuzzi da questa compilation. Chiaramente ce l'ascolteremo in un'altra circostanza, se no ci sarebbe una sovraesposizione di Becuzzi. Per cui andiamo avanti. Il 13 novembre del 2004 moriva John Balance, fondatore dei Coil. E quindi di questi tempi ci piace sempre ricordarlo attraverso una delle sue numerosissime opere, molte anche postume, comprese questo The New Backwards in versione anche ultima e allargata a 18 tracce. Un ideale doppio album dunque, e ci ascoltiamo Ambient Basses Hijack e Wurklick Wurruf del 1994. Thank you. We'll be right back. Ed ha ragione il buon Nicola Locci affermando che non c'è un beat fuori posto nell'arte dei Coil. Anche questo New Backwards, questa nuova versione estesa del 2022. John Balance e Peter Christofferson, nucleo principale dei compianti Coil, entrambi scomparsi. Entrambi di novembre, coincidenza particolare, uno del 2004 e l'altro, Peter Christofferson, nel 2010. Queste probabilmente erano considerate delle tracce, diciamo, extra scartate da altri dischi, ma sentite che intensità nonostante tutto. E si chiamavano Ambient Buses, Hijack Mix Number 1 e V-Click V-Roof 1994. Da Roma Est, dal settore Roma Est, ci sta ascoltando Paolo Contucci, che abbracciamo. Accogliamo tra noi anche Wurnus Aylin, industrial storico piemontese, Massimo e Tiziana. E questa era una versione di Backwards che ci ascolteremo la prossima settimana. Andiamo avanti, i Coil hanno messo d'accordo tutti, ma non mi sorprende. Questo prossimo artista invece io l'ho scoperto in colpevole ritardo, magari qualcuno di voi già lo conosceva. Trattasi di Jimmy Smack. Un personaggio che bazzicava la scena sotterranea californiana dei primi anni 80.